ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dovrebbero obbligarti ad aprire la trasmissione tutte le sere con un bel buonasera, fino a che non lo liberi. Free Parenzo! Sì, ma dai, fatti bravi! Allora, dobbiamo dire subito all'inizio che agli italiani non gliene frega assolutamente nulla né della legge elettorale né di come viene approvata la legge elettorale, perché i giornali sono pieni di queste robe qui, no? I giornali, le televisioni sono pieni di servizi, di considerazioni, di analisi sull'italicum. Io farei un esperimento dopo, durante la trasmissione, sì. Chiamando qua e là per capire le persone se sanno che cos'è l'italicum. Giustamente non sanno cos'è l'italicum. Cioè alla gente di come viene approvata la legge elettorale, con la fiducia, senza fiducia, maggioranza, piccola, grande, voto segreto palese. Le grandi intese, la maggioranza più larga, non gliene fotte una mazza, diciamolo chiaramente, è così, ma chi questo gliene credo, ma è così, credo, è così, questo credo. Siamo, sono robe da dai per iniziati, sono robe che per noi politologi, no? Ma per voi, noi, tu, noi raccontatori della politica, sì, no, che sapere che il governo ha messo per la prima volta nella storia repubblicana la fiducia sulla legge elettorale è atto gravissimo. La cosa più ridicola del mondo, la cosa più ridicola del mondo è Brunetta, per esempio. Brunetta. Signor Brunetta, che dopo aver approvato anche lui l'italicum, adesso dice che vuole impedire il fascismo di Renzi. Brunetta. Sono delle cose che mi fanno veramente sganasciare dalle risate. Per questa ragione noi faremo di tutto in quest'aula e fuori di quest'aula per impedire il fascismo renziano, no al fascismo di Renzi. Ragazzi, ma si può credere una roba del genere? Cioè si può credere una buffonata? Io non ho grande simpatia per questo Presidente del Consiglio, ma non per lui, per quello che sta facendo. Sono sempre stato molto critico. Ma come, non è un runner anche lui? Ma chi se ne frega, a parte che non è vero, a parte che non è vero, ha corso qualche volta. Ma il punto è un altro. Cioè non si può parlare di fascismo di Renzi. È vera una cosa, che se Berlusconi avesse messo la fiducia sulla legge elettorale, scusatemi se parlo di queste cose alle 18:37, volete ridere, vi volete divertire, volete stare un po' rilassati, non parlare di italicum, questo lo capisco. Se Berlusconi avesse messo la fiducia sulla legge elettorale, ci sarebbe la gente in piazza a gridare al golpe. Diciamola tutta, dai, forza. Poi Brunetta che dice un uomo solo al comando è inaccettabile per la democrazia. Brunetta, un uomo solo al comando. Ma non mi fate dire niente, perché sennò veramente mi querela. A imporre una legge elettorale a colpi di maggioranza per uccidere la democrazia nel nostro paese, per diventare quello che lei ha dichiarato, signora Presidente, un uomo solo al comando. Questo è inaccettabile per la nostra democrazia. Dai, su Brunetta che parla di legge elettorale a maggioranza, anche la legge elettorale votata da Berlusconi fu a maggioranza. Incredibilmente non ci fu bisogno della fiducia, invece adesso Renzi mette la fiducia. Come cambiano i tempi, Bianconi che dice dorme, dittatore. No, ma si è addormentato anche. Vabbè, Bianconi, sì, vabbè, avrà sonno, dai. Sì, per carità. Il Parlamento può mandarmi a casa, cioè io sono un dittatore, faccio come mi pare. In democrazia non funziona così. Ovviamente, ma pur tuttavia Massimo Leoni, ne avessimo conosciuto uno di dittatore che dicesse potete mandarmi a casa, insomma, e Hitler generalmente... lo diceva spesso. Hitler lo diceva, io se non vado in Parlamento e prendo la fiducia, perché aveva vinto le elezioni, anche Hitler, capito? Non è che... La ringrazio per la situazione comunque storica, Leoni. Allora, alcuni di Sella hanno parlato di stronza, se non sbaglio, dicendole no, forse no. Comunque, insulti vari alla Boldrini, faccia di merda. No, quello di Sella. Sì, no, Bianconi, credo, faccia di merda. Non so se alla Boldrini oppure a Renzi. Oh, dov'è che sei andato l'altro giorno? Che cos'è che hai visto? Il film di Veltroni? La settimana scorsa, bellissimo, bellissimo. Grande, no? Grandi, bellissimo. Sui giornali, no? In pompa magna, presentato. Bellissimo. Grande bellissimo. Pompaggio della stampa e grande tutto. Film, molto 100.000 bello, euro ha incassato. Poetico. Ha incassato 100.000 euro in 92 sale. Le opere d'arte. Dai, le su. Opere d'arte. Tanto è stato prodotto solo con soldi privati, Gasparri, e non pubblici. Ma quello meno male. Ma Gasparri! Gasparri e Gasparri! Gasparri e Gasparri! Sentiamo Gasparri su Beltrone. Un attacco alla sgarbi. Veltroni, che ha avuto risultati migliori in politica che al cinema, non so se ha visto il flop. Ho letto oggi, sì, che non ha fatto grandi numeri. Noi oggi abbiamo un problema di frammentazione. È tornato ancora una volta Buonanno. È tornato al Parlamento Europeo Buonanno a parlare degli africani che raccolgono ancora giornata, le noci da cocco. Non è una le noci di cocco, buon anno. Buonanno. Gli africani raccolgono ancora le noci di cocco. Il Parlamento Europeo così ha detto. Cioè, gli africani, secondo lui, sono fermi alle noci di cocco. È incredibile. Grazie, signor Presidente. Come promesso faccio il bravo. Beh, io voglio fare solo una considerazione. Probabilmente gli africani hanno bisogno di un aiuto come l'adulto deve aiutare un bambino, perché se quando c'era il Rinascimento, noi facevamo il Rinascimento e molti in Africa raccoglievano ancora le noci di cocco, oggi siamo nel 2015, noi siamo nel 2015 e molti di loro raccolgono ancora le noci di cocco, quindi bisogna educarli, bisogna fare in modo che stiano là, bisogna aiutarli là. Gli africani e le noci di cocco. Ma se non è razzismo questo? E Mandela? Mandela raccoglieva le noci di cocco? Ma che vergogna. Ma magari sì, ma non è mica un delitto raccogliere le noci di cocco. Ma è proprio lo stereotipo. Ma se non è razzismo questo, cos'è razzismo? Ma io non so più, ormai è tutto sto tutte le parole, si può dire qualunque. Cos'è razzismo se non questo ormai? Lui stesso sa di dire stupidaggini e infatti si autointroduce al Parlamento Europeo dicendo farò il bravo questa volta, come il bambino che viene sgridato, quello che fa la pipì in classe, nelle mutandine, dice no ma questa volta non lo farò più, è uguale. A proposito di rom, immigrazione, tutte le cose di cui si parla da settimane, voci che vengono dal Veneto, sentite un po', voci Piazza raccolte, sì, voci raccolte nel Veneto, nel profondo Veneto. Lo so. Divieto ai nomadi. Ma non è un po' razzista questo cartello? Razzista? No, ci metterei un mitra là. Ma quando arrivano? Ammazzerebbe tutti lei, Rom. Tutti? Tutti. Anche i bambini, piccoli. Ah, pure i bambini lei ammazzerebbe. Sì, perché dopo diventano grandi. Ancora voci, credo, dal paese di Gio Formaggio, se non sbaglio. Esattamente, molto bene. Fascista e anche fascista. Ah pure, Salvini le piace un po'. Sì. Lui dice le cose, va a spianare i campi rom. Inventaria le gomme e il carburante per farlo. Voci dal paese di Gio Formaggio, ma io vi voglio fare riascoltare, ragazzi, la telefonata di ieri sera alla Zanzara, La prima telefonata, poi manderemo anche la seconda. La prima telefonata con la signora che se non sbaglio si chiama Patrizia Nassetti. Si chiama Patrizia Nassetti from Ibiza, sul terremoto in Nepal e sul fatto che alla fine se lo sono meritato, perché fanno un festival ogni anno dove ammazzano centinaia di migliaia di animali. Fuga di cervelli, la signora Patrizia Nassetti, fuga di cervelli dall'Italia a Ibiza. Pronto? Sì, signora Nassetti? Sì. Sì, salve, buonasera. Lei ha scritto un post, un Facebook in cui si parla del Nepal? In cui? Si parla del Nepal? Sì. Hanno avuto la punizione della natura, giusto? Sì. Ma come mai? Me lo può spiegare? Sì. Stiamo facendo delle verifiche. Pronto? Guardi, le dico. Mi dica. Lega bene la mia pagina di Facebook. La no, lega bene. No, l'ho letto. Ecco perché ho eliminato post Nepal. L'hanno avuto la punizione. No, no. C'è un post precedente dove c'è tutta la spiegazione. Sì, ma mi dia lei la spiegazione perché non l'ho capito bene. Hanno avuto la punizione della natura, cioè se lo sono meritato, ma perché? Perché loro fanno un festival ogni anno che si chiama Festival Gandhi. Sì. Dove ammassano milioni e milioni di animali nei riti più cruenti. Sì. E allora? Per me l'animale e l'uomo è uguale. Sì. Però quindi sono stati puniti. Scusi signora Nassetti, gentile signora Nassetti, però sono morte 4.000 persone. Lo so. 4.000, più di 4.000 persone, tra cui dei bambini. Lei scrive che hanno avuto la punizione della natura perché ogni anno fanno un festival in cui ammazzano degli animali. Milioni di animali. No, milioni. Milioni. Scusi signora Nassetti, ma lei non si vergogna? Ma anche fosse. Ma non si vergogna? Non mi vergogno, arrivederci. Non si vergogna di quello che ha scritto? Allora, in diretta da Malta, un amico di Parenzo, un ex amico forse, un economista, persona che scrive di economia. L'ho intervistato per su due linee. Sì, vabbè, ma non relativo. In modo diverso. Vabbè, è Eugenio problema. Benetazzo, che saluto, ciao Eugenio. Sì, salve, ciao a tutti, buona giornata. Ciao, più o meno hai scritto le stesse cose che ha detto questa signora. Allora io leggo un post di ieri delle... No, scusate, non ho scritto assolutamente. Aspetta, fammi leggere il post che ho raccolto. 13:43 di ieri, Nepal, una nazione che organizza periodicamente un massacro di 500.000 animali per un festival musicale. Bovini, caprini, ovini, oltre a tanti altri tipi di volatili, sono decapitati brutalmente e lasciati morire agonizzanti davanti agli occhi dei loro simili. Ci siamo? Sì. Ok, benissimo. C'è una frase: il terremoto che hanno appena subito, pensate che sia casuale? Tra l'altro questa è una seconda versione. Non ho capito che cosa c'entra il terremoto con l'uccisione degli animali, non ho capito bene. È un interrogativo, infatti è una domanda. Ma ho capito, ma, sì, che relazione c'è tra il terremoto e l'uccisione degli animali? No, sono curioso, non lo dico per pigliarti per il culo, cioè ti piglierei volentieri per il culo, magari lo faccio dopo. Ma che relazione c'è tra il terremoto con quasi 6.000 morti e l'uccisione degli animali? Spiegami. Ognuno di noi ha un proprio approccio a quello che sono le tragedie sia della natura che poi anche il comportamento umano. È stato un survey, cioè un sondaggio che ho fatto postando quella citazione lì che hai appena letto e aggiungendo anche il video di un'associazione animalista che si chiama Animal Equity, sì, che riporta le riprese video attraverso una clip che potete anche in questo momento qua visionare e fa vedere l'atrocità e la barbarie di questo sacrificio che viene perpetrato periodicamente in Nepal nei confronti di una fantomatica divinità. Sì, io vorrei invitare però tutti quelli che non conoscono a vedere il video. Ma non c'entra il terremoto. Va bene, benissimo, mettiamo che abbiano commesso delle atrocità. Ma vi spiego per quale motivo è stato effettuato il post. Chiaramente ci sono stati poi tutti i vari interventi di... No, scusami Eugenio, io voglio ancora capire la relazione tra il terremoto e quello che tu chiami giustamente magari, atrocità e ammazzamento di animali, però dopo il traffico, un attimo solo, so che sei a Malta, devi parlare con i ministri, sei lì per affari pazzeschi, Eugenio Benetazzo, un attimo. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico no. Fate qualcosa, vi prego. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta La Zanzara. Alla Zanzara, le follie animaliste sul Nepal, non è una nostra fissazione, però andiamo a scovare quelli che secondo noi sono dei fuori di testa. Io non so se Eugenio Benetazzo, che è un economista, che di solito è una persona, insomma, no, poi uno la può pensare diversamente da lui, ma come ti viene in mente, Eugenio, in diretta da Malta, fare un collegamento tra il terremoto con migliaia di morti e l'uccisione degli animali, perché in fondo io sono sicuro. Scusa, Giuseppe, ma guarda che stai travisando. Scusa Giuseppe, stai travisando niente. Perché dopo la frase che hai letto prima c'è un viene posta una domanda ai lettori. E qual è? Esatto, non c'è un punto di domanda. Sì, puoi rileggere la domanda per cortesia. A parte che c'è una prima frase in cui tu hai scritto che era una punizione divina e poi l'hai cambiata. Dunque, ma quando mai assolutamente l'hai cambiata? Comunque il terremoto l'avrà scritto qualche altro lettore o qualche altro follower che è intervenuto e poi avrà postato, avrà fatto il suo commento. Ma io mi sono limitato esclusivamente a porre. Vabbè, ma quando uno pone una domanda del genere, dirò di più, che è molto più interessante anche per chi sta ascoltando questo tipo di feedback che ti posso dare. Dimmi. Che riprende quindi tematiche di natura economica sul. No, ma tu come rispondi? Aspetta un attimo, come rispondi al sondaggio? Pronto? Non ho capito, scusa. Come rispondi al sondaggio, Benetazzo? Come rispondi? Il terremoto che hanno appena subito, pensate che sia casuale? La risposta di Benetazzo qual è? Sì o no? No. Secondo me no. Ah, non è casuale. Ma che vuol dire? Allora, no? Ecco, questo è interessante. Non è casuale il. Ma in che senso? Cosa vuol dire? In che senso non è casuale? Spiegami. Secondo me non è casuale, è più interessante invece sapere ma decido io cosa è interessante o no. Scusami Eugenio, ma abbi pazienza, quando fai le conferenze parli tu, quando io faccio le domande, se accetti di venire qui rispondi alle domande, altrimenti non rispondi. Se io ti chiedo il terremoto che hanno appena subito, pensate che sia casuale, tu mi rispondi non è casuale, spiegami perché, magari c'è una logica che posso capire. È difficile che io possa capire una logica del genere, vai pure, spiega. La stragrande maggioranza dei paesi, delle nazioni asiatiche hanno improntato quasi tutta la loro ideologia e filosofia di cultura religiosa sull'allineamento karmico. Sull'allineamento? Karmico. Allora? Si potrebbe parlare per ore, quindi invito persone che sono molto più competenti di me relativamente a questo tipo di... Ma che c'entra l'allineamento karmico? Spiegami col terremoto, ancora non riesco a capirlo, sono ignorante io, spiegamelo. Tu hai detto, non è casuale che ci sia stato un terremoto perché ammazzano gli animali, spiegami, non capisco. No, non ho detto, no scusa, qui non si tratta di uccidere gli animali, gli animali purtroppo li uccidono in tantissimi altri paesi, però magari li uccidono attraverso... delle procedure che sono riconosciute. Va bene, invece questi qua li massacrano, meno impattanti, e soprattutto non producono la sofferenza atroce di altri paesi o di altre nazioni che intraprendono questo tipo di modalità. Benissimo, questi nepalesi tu dici sono delle bestie praticamente, sono dei massacratori di animali. Okay. Beh, ma tu da come parli si capisce che non l'hai visto il video. Ho capito, ma anche se fosse, io l'ho visto il video, ma lasciamo, ma non sono io che fa, non sei tu che fai le domande, sono io. Cioè, scusami Eugenio, però andiamo al sodo. Tu dici non è casuale il terremoto. Benissimo. Qual è il nesso tra il terremoto e l'uccisione degli animali? Hai cominciato a dirlo. Hanno una filosofia religiosa che prevede l'allineamento karmico. Dunque. Ma tutti i paesi asiatici, in particolar modo quelli che sono legati alla religione indù, cioè, dovremmo stare qui a parlare per ore su cosa, quali sono i fondamenti di quella dottrina religiosa, quali sono gli assunti su... E dunque non ho capito, il loro comportamento e così via discorrendo. Scusa, ma tu non ti chiedi il meccanismo di funzionamento delle caste in India? Cosa pensi che sia tanto diverso da quello che ti ho appena menzionato io? No, però adesso vorrei capire il terremoto, il legame col terremoto. Non giriamo intorno alle cose. No, se tu dici che il terremoto non è stato casuale, mi devi spiegare perché non è stato casuale. Allora, secondo... Non è stato casuale per ragioni, come ti ho detto, di? Stando alla dottrina induista di riallineamento karmico. Ah, ho capito. Adesso, non è che mi puoi chiedere a me, che sono un economista, di entrare nelle peculiarità, cioè, di queste definizioni o assiomi che riguardano altri. Ho capito, secondo l'allineamento karmico il male che fa è prima o poi si pareggia con quello che subisci, giusto? Sì, guarda che noi cristiani non siamo tanto diversi da questo punto di vista. Cioè, siccome loro fanno tanto male agli animali, allora alla fine ecco la bastonata che arriva. Diciamo la verità, non hai pianto per il Nepal, per il terremoto in Nepal, non ti sei messo a piangere. Che ti posso dire è che tante persone, e questo forse vi interessa anche a voi in radio, tante persone che prima magari erano, dopo la ricezione della notizia sul terremoto, che erano probabilmente intenzionate a fare una donazione attraverso le varie ONLUS che si occupano di aiutare in questo caso qui le popolazioni colpite e così via discorrendo, hanno detto no, io non me la sento più in questo caso qua di donare. Saranno animalisti, non saranno animalisti, tu sei contento, saranno allora persone particolarmente sensibili. Però tu sei, hanno dato. Tu sei contento di questa... È un risvolto di natura economica, è un risvolto di natura economica. E tu sei contento di questa roba qua, in fin dei conti? Cioè, sei contento che le persone abbiano preso consapevolezza del fatto che questi qua massacrano gli animali? No, io non sono contento che ci siano paesi che riservino quel tipo di trattamento a migliaia di altri esseri. Sì, però devi essere... Ma che c'entra il terremoto? Ma non c'entra nulla, però. Il terremoto non l'ho mandato io. Però se lo sono meritato, secondo te? Ma questo lo stai dicendo tu? Eh no, ma io voglio sapere come la pensi tu. Ti ho appena menzionato che riferendosi alle culture asiatiche dal punto di vista dell'aspetto religioso ci sono dei temi legati alla dottrina e alla spiritualità di quelle popolazioni che sono intrinsecamente collegate con la cultura del riallineamento karmico. Il riallineamento karmico. Il riallineamento karmico, amico mio. Vabbè, va. Ciao, ciao, Benedà. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ragazzi, no, no, non è possibile, dai, su, non è possibile. Non è possibile. Eugenio Benedazzo, un economista, ma vi rendete conto? No, il riallineamento karmico, cioè, dopo quello che hanno visto, molte persone ci hanno ripensato sul fare delle donazioni per il Nepal. Cioè, si passa da una disperata Ibiza che non sa quello che dice a Eugenio Benedazzo. L'animalismo! Pubblicità, giornale radio. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova oppure adatti quella che hai già. E poi è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Strumento nelle mani del demonio. Sai come li potremmo soprannominare questi qua pazzi animalisti che collegano la tragedia del Nepal, i morti potrebbero essere 10.000, alle cose atroci che commettono sugli animali? Perché effettivamente, guardando i video che mandano le associazioni animaliste, tagliano la testa alle vacche. Può essere inaudito, ma io cosa spero c'entra che quelle con cose, questa roba? Ma... che quelle cose vengano finalmente fermate. Però il problema è che non c'è nessun collegamento. Ah, ecco, no, non c'è alcun collegamento tra le atrocità che fanno questi qua nei confronti degli animali, perché in alcuni casi sono delle cose atroci, ma sempre certo. Animali sono, ma sempre sono animali atrocità, sono atrocità, d'accordo, ma non c'entra nulla col terremoto, ragazzi, ma oh li potremmo chiamare nazi animazisti, ecco, non animalisti, carino. Animazisti. Carino, animazisti, carino. Mi è stato suggerito via Twitter da un amico, da un ascoltatore. Animazisti. Ma sai che cosa farei io a un certo punto, al volo, senza fare la preparazione, registrare, eccetera? Chiamerei un paese sperduto della Sicilia per capire se sanno cos'è l'Italicum. Così al volo, un paese della Sicilia, ma anche una città. Racalmuto, la città di Sciascia. Val Guarnera, Caropepe. La città di Renzi, Rignano. No, chiamiamo Rignano. Sicuro. No, chiamiamo Rignano. Lei lo sa cosa è l'Italicum? Sicuro, chiamiamo Rignano. Sì, buona idea. Rignano. Anche ne, perché non capito, i siciliani sono più ignoranti di quelli di Rignano? Non no, ma semplicemente perché lì, essendoci Renzi tutto il giorno, il weekend, gli avrà detto. E Renzi gli avrà detto cos'è? Ma no. No. Ma non c'entra niente, dai. siamo qui, 800 24 00 24. Aurelio da Taranto, Aurelio vai. Sono pronto, buonasera. Vai. Intanto le faccio i complimenti per la trasmissione. Non li voglio i complimenti, non me ne frega assolutamente nulla. Voglio... so che non te ne frega. Devi andare al sodo, vai al sodo, spiegami quello che vuoi, perché hai chiamato, vai. Allora, il sodo è questo: un padre di famiglia è tutore dei propri figli, giusto? O mi sbaglio? Fino a prova contraria, sì. Allora? Lo Stato italiano invece è un distruttore dei propri cittadini. Che vuol dire? Perché? E cosa vuol dire? Vuol dire che giustamente lo Stato italiano sta distruggendo quotidianamente i propri cittadini nel dissanguardi, nell'economia. Vabbè, Aurelio, dai, non ci fare due palle così con questo discorso. Che vuoi alla fine? Che significa lo Stato sta dissanguando i suoi cittadini? Non vuol dire nulla. Tu ti senti, dissanguato? Tu ti senti dissanguato? Mi sembra che sei vivo e vegeto, non sei prosciugato, no? Di tanto mi sento dissanguato io come tutti i cittadini. Vabbè. La gente non ha più soldi. L'ignoranza ancora del cittadino che va a votare sti quattro cessi, iniziando ma da quali sarebbero sti quattro cessi? Tutti i porci e quelle zoccole che ha messo adesso sopra lì. Ma per dai, portare, su Aurelio, smettila. Ma fai una critica seria. Fai una critica seria invece di queste stronzate, non dobbiamo dai. Non andare più a votare. Non devi andare più a votare. Ma uno decide quello che vuole. Ma perché devi spingere la gente a non votare? Non ho capito. Perché giustamente votando la prendiamo ancora più nel sedere, questo è contento. Vabbè Aurelio, ciao. Giovanni da Firenze, mi hai rotto le palle. Giovanni da Firenze, dai. Sì, Giuseppe, ciao. Senti, allora volevo intervenire sul discorso lì economista Nepal. Allora, sì. Intanto due cose. La prima cosa è questa: quando non ne cavi un ragno dal buco, non stare lì a rompere i coglioni alla gente, così con la stessa velocità con cui tu chiudi le telefonate agli altri, chiudi anche agli altri interlocutori. No, ma stai tranquillo, no? Stai calmo, non mi pare che alla fine abbiamo tirato fuori altro che ragni dal buco. Alla fine ha ammesso degli quello... elefanti sono usciti. No, tu a tutti i costi ti volevi sentir dire, no, che lui invece era contento di questo. Ma era quello che pensava, è evidente. Vabbè, no, ma qual è il punto, evidente. Giovanni? Seconda cosa, sì. Voglio dire questo: se davanti ad un popolo che uccide 500 animali l'anno, 500.000, quindi parliamo dicono, di un, 500.000, quindi parliamo di un popolo di incivili, e poiché sì, davanti alle forze della natura non ci si può far nulla, benvengano, evitiamo tutti. Benvengano cosa? Le forze della natura? Sì, benvengano le forze della natura, evitiamo. Ma tu sei fuori di testa, ma tu sei completamente pazzo. Ascolta, cioè, sentimi, evitiamo tutti questi animalisti incassati neri, poiché di animali si tratta, e 500.000 bestie che vengono uccise in quel modo di certo non è un bel lavoro da fare. Evitiamo che vadano a imbracciare fucili e, no, e quindi facciano una strage di 30, 40, 50 e passa. Quindi ci sono le forze della natura, vuol dire che c'è qualcuno che Dio vede e provvede. Che dici o no? Al di là del discorso karmico. Ma te ancora non t'hanno ricoverato, no? Che cazzo ne sappiamo noi del discorso karmico? Ma non t'hanno ricoverato o no te ancora? Ancora guarda, non t'hanno ricoverato. Guarda, né io né te, tanto siamo in grado. Non di ti hanno ricoverato, cioè ogni tanto uno che dice comunque, di fronte no, a un terremoto. Io dico che mi dispiace per questa gente, ma Dio vede e provvede. Se le forze della natura. Ma è un po' contraddittorio dire me ne frega di queste persone, però Dio vede e provvede. Cioè, secondo te, ogni tanto, siccome ammazzano 500.000 animali, la natura provvede. No, io dico che anche. Ma quale natura che si vendica? Quale? Siete pazzi? Lo sai che io sono sempre più convinto che le religioni siano veramente non l'oppio dei popoli, ma sono che la morte dei popoli. Ma la follia, non le religioni, ma che c'è? Tutte le religioni hanno nel loro dentro un germe di follia. Ma come gli uomini hanno germe di follia. Io dico una cosa, anche quella è una forma di giustizia o sbaglio? Ma quale giustizia, di che cosa, come, quando, perché se qualcuno ammazza gli animali secondo violando norme internazionali dovrebbe essere perseguito, punto e basta. Il terremoto, la natura non c'entra una mazza, chi lo dice è un coglione, chiaro? E siccome tu lo dici, sei un coglione. Siamo due coglioni allora, perché? Ma due, ma purtroppo siete di più, non due, già ne abbiamo scovati alcuni in questi giorni. Siamo due coglioni. No, io coglione per questa cosa non lo sono, magari lo sono per altre cose, su questo non sono coglione. Vabbè, ti saluto, ciao. Ciao, ciao. Allora, vogliamo scommettere che il TG3 apre sull'Italicum? Beh, per forza. Senti, senti. And now, the headlines, news, Channel 3. E adesso, i titoli del TG3. Fiducia sull'Italicum, Renzi, finché ci sono provo a cambiare l'Italia, se vogliono mi mandino a casa, superato il voto segreto sull'incostituzionalità. Bagarra alla Camera, insulti alla Boschi, Sel lancia crisantemi, Brunetta, fascismo renziano, 5 stelle miserabili, Bersani in gioco la democrazia. Nepal oltre 5.000 le vittime, ma si teme che possano arrivare a 10.000. L'ONU 8 milioni di persone colpite, il sisma ha spostato Kathmandu di 3 metri. Degli oltre 340 italiani in Nepal, in 10 non hanno ancora dato notizie alle famiglie, ma non significa che siano dispersi, precisa la Farnesina. Venerdì l'apertura dell'Expo, presentata la Carta di Milano, una sfida per ridurre gli sprechi e sfamare 2 miliardi di persone, contestato il commissario Sala. Tasse diverse nei diversi comuni, per la CNA Cuneo si lavora per le tasse fino ad agosto, a Reggio Calabria a settembre, fisco in calo per le piccole imprese. Stati Uniti, Baltimora in stato di guerra per i funerali del giovane nero ucciso dopo l'arresto, centinaia di arresti, 15 agenti feriti e l'incubo di una nuova rivolta. Andiamo a Milano, Emanuele, vai, vai Emanuele. Ciao, sarei un simpaticone, ma sei anche un superficialone. Può essere, perché può essere, dimmi. Non puoi da direttore di, un, di, una, di una radio. Non sono direttore di nessuna radio, per fortuna. Vabbè, sei conduttore di una radio. No, di una radio, no, di una trasmissione, ti segnalo. Conduttore di una trasmissione. Bene, siamo arrivati finalmente a una definizione, dai. Bravo. Non puoi dire a nome degli italiani che l'Italicum non gliene può fregare più di vero, me. Non puoi, non puoi. Secondo me è così. Scusami, sono 50 anni. Emanuele, a te frega, ma a moltissimi italiani non cambia assolutamente nulla. Che tu forse... E comunque non gliene frega niente se viene approvata a maggioranza, con ma la fiducia, senza la fiducia. Beh, saremo non superficiali, diciamo, ma è così. No, dai. Ma non diciamo che sono 50 anni che noi abbiamo centinaia di governi che cadono, perché non abbiamo un sistema per cui per 5 anni governa l'uno e gli anni 5 successivi, se gli elettori lo mandano a casa, l'opposizione va a governare il governo per 5 anni. Questa mattina, siccome io ogni tanto, sempre di meno, guardo le trasmissioni di approfondimento politico, a un certo punto c'era un signore, anzi no, ieri sera credo a Piazza Pulita, che è una delle poche trasmissioni che guardo, a un certo punto c'era qualcuno che faceva notare che in realtà anche in questo modo, se passasse l'Italicum alla Camera, il partito che prende più voti e che poi vince il secondo turno avrebbe 34-35 deputati di vantaggio, cioè una roba che in Italia con i cambi di casacca che ci sono, allora, basta un nulla. Infatti basta, un'altra norma. Allora fare, prendiamo come vangelo quello che dice un italiano come potrei essere io. Andiamo a vedere a fondo lo scopo di questa volontà di fare una legge elettorale che consenta di governare senza avere, vabbè, sempre a te piace, i ricatti. A te piace? No, no, non è che a me piace. Ma magari sono ti piace, stufo. Va bene. Io ho 68 anni, ma sono stufo di vedere governi che cadono, che non resistono 5 anni a vantaggio di quegli sporcaccioni di politici che si arricchiscono di questa situazione e fanno la mala politica e il mal governo. Quindi il sistema elettorale è importante. Vabbè, beh, questo che è importante, non c'è un mai dubbio. Ho detto che non è importante, che è importante, ma è una materia per iniziati. Franco da Ravenna, vai Franco. Ciao Cruciano, senti, telefonavo per la violenza negli stadi, perché proprio mi sono rotto i coglioni, non se ne può più sentire. Ma vabbè, quello ci siamo rotti i coglioni tutti. Ah, i politici, allora, i politici che chiacchierano su questo, anche noi ci siamo rotti i coglioni. Poi? Esatto, benissimo. Allora la soluzione secondo me si può trovare, tant'è vero che il mio cellulare lo puoi dare anche a Renzi, che forse è l'unico che vediamo la soluzione di cosa. La soluzione. La soluzione di Franco da Ravenna, coglione che tiravi il sasso. Allora è così, io sono un dirigente di un'azienda, ma conosco tanti, ho tanti amici imprenditori. Uno che fa violenza e fa casino nello stadio, al di là delle leggi attuali, si scrive nel caso d'identità tifoso violento e deve essere comunicato al datore di lavoro, perché se io sono un datore di lavoro è un coglione che va in giro a picchiare, a rompere, a far fare. Cioè tu dici che se uno fa violenza negli stadi un datore di lavoro lo dovrebbe licenziare? No, se uno si fa una legge, perché se uno è un delinquente, io nella mia azienda i delinquenti non lo voglio, ma non solo delinquenti. Guarda che spesso succede secondo me, perché quando uno arriva sui giornali per avere commesso una violenza o perché è condannato, il datore di lavoro lo viene a sapere e in teoria lo può anche licenziare. licenziare. Ma in teoria, ma il discorso è che chi ha tirato quel sasso dove ci sono le telecamere, cosa si fa oggi? Purtroppo, io guardo, ho fatto anche su un ex carabiniere. Qui il problema è che se nessuno ha niente da perdere e il giorno dopo va a lavorare tranquillamente perché non succede nulla. No, questo è vero, bisogna punire le persone non solo col carcere, eccetera, ma colpirle anche economicamente. Esatto, allora un ragazzo giovane che va all'università, io mi ricordo, eravamo in 30 carabinieri, fate la carica, c'erano 200 teppisti coglioni che spaccavano macchine. Allora che cazzo è successo? Il tenente fa: ma guarda che non vi preoccupate, siamo in 30, ma fra quei 200 ce ne rimangono i 10 sono i delinquenti, perché gli altri 190 vanno lì a testa bassa, se ne vanno e tornano a casa tranquillamente dopo aver spaccato tutto il mondo. Allora abbiamo le telecamere, tutto. Un ragazzo minorenne si segna nella carta d'identità tifoso violento, poi ci sono le leggi. Cioè io quando... No, no, ma va bene colloquio... questo che dici, è perfetto quello che dici. Franco, aspetta un attimo, fermo. Brucida. La Zanzara. Ma vogliamo sentire cosa è successo nel momento in cui oggi la Boldrini ha annunciato che il governo avrebbe messo la fiducia sull'Italicum? Qualcuno ha detto addirittura: vergognatevi, infami, non alla Boldrini naturalmente, ma riferito al governo. Ora, io ripeto, la questione della fiducia è una questione assurda, perché nessun governo ha mai posto la questione di fiducia, forse De Gasperi con la legge truffa, non lo so, insomma, sì, tempi lontani. Se l'avesse messa Berlusconi la fiducia su una legge del genere, ci sarebbe stata la rivoluzione oggi, la gente in piazza, il Parlamento bloccato, l'Aventino, l'inferno, la dittatura, Berlusconi vuole imbavagliare tutti, è una vergogna, le regole vanno decise insieme. Si sarebbe detto esattamente così. La mette Renzi e vabbè, tutto passa in cavalleria. A me personalmente non me ne frega niente. Vogliono mettere la legge, la fiducia per far passare la legge. Che me ne frega. Con quale legge si andrà a votare? Io andrò a votare. Pazienza. Onorevoli deputati, a nome del governo autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la ministra. Deputati, per favore. Bianconi, deputato Bianconi, la richiamo all'ordine. Lasciate parlare la ministra, io non la sopporto questa cosa. Lasciate parlare la ministra, il ministro, non la ministra, il ministro. Vabbè, quei dettagli. Va bene, 800240024. C'è stato un caso incredibile nei giorni scorsi in cui un uomo si è lanciato a Genova dal ponte monumentale dopo il coinvolgimento del figlio in un'inchiesta che si chiama Pharma Connection, ok? Allora, ha scritto la magistratura è stata miope, eccetera, eccetera. La cosa incredibile sono i commenti, l'inchiesta è a Monza. I commenti del procuratore capo di Monza Carnevali, che ha detto: dispiace, però sono cose sempre accadute. Ci ricordiamo di Mani Pulite, dei suicidi eccellenti. Che cosa dovremmo fare noi magistrati? Smettere di indagare su chi commette degli illeciti? Ormai dicono tutti così, cioè che i magistrati sono miopi, non c'è altro da dichiarare. Mi dispiace per quello che è accaduto, ma ci dobbiamo mettere d'accordo. Vogliamo dei giudici che facciano il loro mestiere? Che provino a fare un po' di pulizia in questo paese, o invece liberi tutti, che ognuno faccia quello che vuole, perché se viene scoperto o lui o qualche suo caro potrebbe compiere qualche gesto sciagurato. Ora, in linea, come dire, in punta di diritto, se vuoi, cioè le parole non sono sbagliate, no? Cioè la magistratura fa il suo dovere. Totalmente inopportune. Ma amico totalmente mio, è morto uno, ma cosa vai a dichiarare? Ma stai zitto, no? Totalmente stai inopportune. Stai zitto, quello è uno che si è ammazzato. Dai, su. Ma sei un giudice della Repubblica, non ti puoi mettere a giudicare, a parlare così dell'ammazzamento di uno. Dispiace, però sono cose sempre accadute. Mani Pulite, a parte Mani Pulite ci furono degli eccessi pazzeschi con gente messa in carcere solamente per confessare che dopo si suicidò. Ma lasciamo perdere questi argomenti. Dai, su. Dovrebbe chiedere umilmente scusa. Rosario da Roma, anzi no, chiudiamo con Franco, dai Franco. Ciao Cruciani, niente, stavo dicendo appunto questo. Vabbè, volevi una legge che ti permette di licenziare un tifoso violento? No, licenziare, ma anche se licenziare nel caso è un tifoso violento, ma un ragazzo di 27 anni che fa il coglione, si ritira la carta d'identità, si individua e si dice tifoso violento. Questo deve sapere che quando fa domande per un posto di lavoro, la sua laurea e il suo master si mette nel culo, hai capito? Sì, ma in Italia invece succede un'altra cosa. Oggi leggevo dalla stampa. Beh, però nei colloqui di lavoro ti chiedono la fedina penale, effettivamente. Sì, no? Beh, certo, quello sì. Quello, però lui vuole andare oltre, Franco. Dice, nella carta d'identità, quando ti presenta, cioè, ci deve essere scritto tifoso violento, ma si può anche concepire una cosa di questo tipo. In Italia invece funziona in modo molto diverso. Leggevo oggi dalla stampa, pagina 13 della stampa, che un tizio che è stato arrestato per il lancio di fumogeni, tifoso della Juventus, un tale che si chiama Luca Lippo, artigiano torinese di 43 anni, è uno che aveva preso il famoso DASPO, cioè il divieto di entrare negli stadi, però ha fatto ricorso al TAR. Ha fatto ricorso, e questo che ha una fedina penale lunghissima, di precedenti allo stadio. Ha fatto ricorso al TAR ed è potuto rientrare tranquillamente. Cioè, il TAR ha fatto la sospensiva. Questa, sì, ma ha eliminato il DASP, insomma, è potuto rientrare allo stadio grazie al TAR. Cioè, ma l'Italia, che cosa, il ma TAR non lo so, adesso non andare nel dettaglio, chi ma se ne frega. Questo è interessante le motivazioni. Ma chi se ne frega TAR? Adesso, il punto è un altro, è il TAR che ha deciso di annullare una sentenza, un provvedimento. Questo qua è potuto rientrare tranquillamente nello stadio, prendere un fumogeno e tirarlo dall'altra parte. Questa è l'Italia, di che parliamo, dai? Va bene, andiamo a Rosario, vai, Rosario da Roma. Buonasera. No, non andiamo a Rosario, quello in Argentina, Rosario, Rosario, vai. Buonasera, io sono buddista da 20 anni e riguardo a... Che sei, scusa? Sono buddista, la mia cosa. Sei buddista da 20 anni. Uno potrebbe dire, chi se ne frega, se io ho dei buddisti nel mio palazzo, sì, a ma Milano. Che male hanno fatto? Ma no, ma le no, ma io non c'ho con i buddisti, anzi, non c'ho nulla. Ogni tanto entro la mattina, rientro dopo accompagnato mia figlia a scuola, rientro verso le 9, 9 e un quarto, e sento. Sento un rumore terribile che viene dalle scale. Ma non è un rumore, pregano, insensibile. Sì, certo che pregano. Loro gli sentiranno. Scusami, i tuoi altri gargarismi, ad esempio. No, qualcuno sentirà quello che faccio normalmente quando vado accesso, quando vado accesso, quando faccio all'amore, quando trombo, non lo so. Rosario, allora il punto è molto semplice. Potete evitare voi buddisti di rompere i coglioni agli altri di fare rumore quando pregate oppure no? Perché si sente per le scale un rumore terribile. A casa mia, ma no, cattivo. A casa mia io entro, voglio stare in pace e sento. Scusa, ma uno ha il diritto di pregare. Ma perché li prendi in giro? Ma no, non sto prendendo in giro nessuno. A un altro potrebbe dar noia quel che fai tu a casa tua. Rosario, mi fai per favore alla radio questo rumore che fate voi buddisti? È molto rilassante. No, però aspetta, facci sentire meglio. Metti un po' vicino sto cazzo di telefono che t'ammazzo io questo telefono. È un mantra. Ma è così, ma quanto cazzo è andata avanti con sta roba qua? Ma è rilassante. Cioè, non è che tu adesso me lo stai facendo per 15 secondi. Togli l'adrenalina, facciamo una, perché mi hanno detto anche oggi. Aspetta, facciamo con calma, perché mi hanno detto oggi Cruciani mi mette ansia. Allora, con calma, facciamo 30 secondi di buddismo. Vai, lo faccia però col tono giusto. Sì, con silenzio, con non con quella solita traffico, telefonate, ascoltatori, cazzi che volano. No, calma per 30 secondi. Rosario, vai, vai. Vai. La mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con horenghe con la mio horenghe con mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe con la mio horenghe. Ma tu ti rendi conto, sono capaci di andare avanti, sono capaci di andare avanti un'ora e mezzo, sti pazzi. Non rimettermi ansia. Ma che minchia di religione è questa qua che fai sta roba qui per un'ora e mezza? Ma guarda, sei proprio una persona incredibile. Sei proprio una brutta persona, spregevole proprio, sei spregevole. Dai, su. Dai, Rosario da Roma. Roma, ma dire comunque, io vado a casa mia e sento questa roba, questa litania, mi sono rotto le palle. Un giorno di questi salgo al terzo piano, al secondo piano, busso e dice: mi avete rotto i coglioni con questa musica che io sento ogni volta che rientro. Basta, mettete, fate voi una casa insonorizzata, andate al tempio buddista che hanno costruito a Milano sui Navigli, c'è un tempio buddista pazzesco, perché sono ricchissimi evidentemente i buddisti, hanno costruito un tempio, hanno costruito un tempio enorme, bellissimo, ma meraviglioso, ma non penso di coglione a casa mia. Ma che cosa fanno? Pregano tranquilli, scusa. Dai, ma potrebbero dire lo stesso di te, chissà le porcherie che sentono che fai tu la sera lì. Vabbè, Rosario, no, siamo partiti dal fatto che tu sei buddista. Adesso ci hai informato di questa cosa. Dopo che succede? Dopo che ci hai detto che sei... No, per questa cosa degli animali, ma è assolutamente una cosa assurda. Cioè, il karma è una cosa, e desiderare il bene di tutti gli esseri viventi è una cosa importante. Quindi è assolutamente una cosa che contraddice la sacralità. Vabbè, adesso però non ci fare due palle così. Perché, perché ci hai chiamato? Oltre a dirci che sei buddista, beh, perché ci hai chiamato? Karma, no? È tutto lì. Del riallineamento del karma, sì. No, non è quella la cosa lì. Cioè, chi pratica, chi ha una concezione del karma, assolutamente prega per il bene di tutti. Quindi è un assurdo dire che le persone meritavano di morire, ma stiamo scherzando. Vabbè, questo lo sappiamo anche noi, vabbè. Poi qua c'ho scritto che ci ho segnato qua extracomunitari, che c'ho profughi, sì. Che io ieri ho sentito quella bellissima cosa che sembra era molto simile allo Zoo 105 quando fanno le telefonate, che sono bellissime queste cose. Sì. E, allora io pensavo che voi stesse dicendo davvero. Io, siccome sono stato UNICEF, UNHCR, Greenpeace, allora tu, pure questo, sei buddista e sei stato pure all'ONU, ce l'hai tutti i difetti. Se sei buddista, sei stato nel posto dove ha lavorato la Boldrini a lavorare con i profughi, col terzo mondo. Ma e poi anche meno male questa, che qualcuno lavora col terzo mondo. Tornassi a lavorare alla col terzo mondo. È il mondo della cooperazione. No, aiutiamo i poveri, aiutiamo i disperati e prendiamo i su. Dai, su, ma ce l'hai tutti. Cioè, lei è buddista, hai lavorato con la... Vabbè, che cosa faresti con sti profughi? Non ho capito. No, io se potessi, anche se avessi una tenda o una casa, cioè io li ospiterei nel rispetto dei diritti umani a braccia aperte, veramente. E raccolgo anche Lukoil, che ha lanciato quella... No, ma Lukoil sono dei pazzi, hanno lanciato un appello, venite qui, un milione, due milioni. Fermi tutti, Rosario è pronto ad accogliere quanti extracomunitari a casa tua, intenda? Ma anche uno, due, tre, cioè, tranquillamente, io pensavo fosse una cosa seria. Ma veramente accoglieresti un extracomunitario a casa tua con la tenda? Con tutto il cuore. Veramente. Parenzo, questo è un amico tuo, questo qua. Vedi. Accoglierebbe gli extracomunitari con una tenda a casa sua. Ma che tu sei? Ma tu sei picchiato in testa. Generoso. Questo è un ma paese senti invece generoso. Quello che succede nel paese reale. Senti, perché come al solito. Ma il tuo paese reale è un paese violento, volgare, di gente cattiva. Le prefetture del nostro paese stanno facendo un'indagine a tappeto e anche imponendo l'arrivo, l'accoglienza degli extracomunitari, accoglienza forzata nelle case degli italiani. Senti che succede e poi dimmi se gli italiani sono come Rosario o sono come questi qua che rispondono. Pronto? Chiamo dalla prefettura di Vicenza, sto cercando il signor Sartori. Anna Maria, cosa che sei? Allora, lei sa sicuramente che siamo in piena emergenza immigrazione. Sì. E lo Stato stanzia 35 euro giornalieri per ogni immigrato che verrà ospitato. Lei quanti ne potrebbe ospitare, signora, la vostra famiglia? Al momento diseria no, perché come fiore che mi sei tornato in Rio. Signora, lo so, però purtroppo lo Stato non riesce più a far fronte a questa... vedo la situazione. No, per ospitarmi se manco, se che vuoi anche il tempo andare in Rio. E siamo qua due ciotti ormai che non capiamo più. Do quattro fiori e nove nipoti, sì che il pensi io che rivoluzione che ho casa mia. E fra poco bisognerà chiedere ospitalità per i suoi parenti, voglio dire. Ho capito il motivo. Sì, pronto. Sì, buonasera, chiamo dalla prefettura di Vicenza, signora. Sì. Lei lo sa, signora, è inutile sottolinearlo che siamo in piena emergenza immigrazione. Gliene sono stati assegnati due, signora. Lei dovrebbe ospitare... A me? Sì, signora, sì, alla vostra famiglia. Non mi posto io. Signora, nessuno in teoria ha posto. Scusi tanto, sa, ma guardi, parlerò con il mio avvocato. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dalla prefettura. Sì, scusi? Chiamo dalla prefettura. Mi dica. La prefettura, come lo Stato, se preferisce, stanzia 35 euro giornalieri per ogni immigrato ospitato, perché siamo in piena e assoluta emergenza. Gliene sono stati assegnati due. Ma lei sta scherzando, non ne voglio neanche sentir parlare. È obbligatorio, lei deve ospitare uno o più immigrati a seconda delle possibilità. Ma lei sta proprio scherzando, obbligo di cosa? No, ma è l'obbligo. Ma fate l'obbligo per aiutare noi italiani prima, ma che immigrati obbligo? No, no, io le sto dicendo, no. Guardi che verrete forniti di tutto, di disinfettanti. Già, siamo abbastanza in basi, lasci stare, se c'è bisogno. Ma se le dico che è obbligatorio, mi perdoni. Se li porti a casa lei, due immigrati, anche quattro. Anche i miei due si porti a casa lei, dai. Non so se hai capito, Non mi faccio inalberare, andatevene a fanculo tutti quanti, che non ho tempo da perdere per queste cose qua. Ma complimenti. Rosario? Sì. Rosario, allora fammi un'altra preghiera buddista, poi te ne vai fuori dai coglioni, dai, fammi un'altra preghiera buddista, dai. Namyo horenge to, namyo horenge to, namyo horenge to, namyo horenge to, namyo horenge to. Ma scusa, ma c'è una variante a sta roba qua o no? C'è una variante o no? Quanto sei? Cioè, c'è una... C'è il... Oppure io sento sempre la stessa cosa quando torno a casa. Ci sarà un somaro, sei? C'è una variante, dammi una variante. Cioè, la religione, ci sono vari canti, no? E no, Vangeli, cose. Vai, fammene un altro. Tu ti rendi conto che devo subire io ogni giorno? Tu ti rendi conto cosa devo subire ogni giorno dei miei vicini di casa? Ma è una cosa, se ne devono andare via! Basta, andassero al tempio buddista fuori! Ogni giorno devo subire questa roba! Ma sai loro palazzo. Cosa devono subire che devono subire di te queste, le persone per bene, buddisti e non, che io voglio raccontare un altro episodio di un mio amico Benedetto, tanti anni fa, adesso non posso fare il cognome, il quale viveva con una, l'ho detto già una volta, sì, tanti, sì, mio amico Benedetto viveva con una ragazza, poi scopre che questa è una ragazza buddista, no, sveglia la mattina dopo aver fatto l'amore, c'ho l'Alzheimer, è una ragazza buddista, inizia glonglo e lui allora questa è la storia. Vai, no, avanti, la poi storia cosa è questa, la storia sempre è... sai quei vecchi di 90 anni che ti dicono quando c'era il fascismo, noi, caro ragazzo, te l'ho mai detto cosa faceva, avevamo preso i fucili, siamo saliti la in storia montagna. È questa, per farti capire, cioè, la relazione tra i due era talmente logorata ormai che la cosa che fece esplodere questa relazione fu in realtà il buddismo. Perché? Perché a un certo punto, secondo te, però, voglio chiedere questo poveraccio, ad esempio, questa storia, aspetta, perché dovrebbe interessare questo l'editore? Poveraccio si svegliava ogni mattina, sì. A un certo punto lei un po' presa dalla, no, dalla o c'aveva uno buddista, un nuovo fidanzato buddista, un amante buddista, oppure che ne so, cioè le era preso un momento così di sconforto per la relazione, si era rifugiata nel buddismo, scopre che la mattina lei sparisce, si alza dal letto presto e comincia a sentire un rumore strano, una nenia pazzesca. Com'è che fa Rosario sta cazzo di canzone di nuovo? Ecco, così, è esattamente questo, comincia a sentire questa roba qui accanto, ogni tanto si alza la mattina, scusa, ma che stragazzo stai facendo? Scusa, sono diventata buddista. In quel momento ha deciso di mandarlo a fare in culo. È proprio rincoglionita forte lei, Vabbè, andiamo a Roma, Federico, dai. Sì, buonasera. Buonasera. Allora, non so se ho capito bene, perché ho acceso la radio per caso, ho sentito a un certo punto una testina karmica che diceva delle cose pazzesche, cioè diceva che il terribile terremoto che c'è stato un po' di giorni fa e se lo sono meritati per via del fatto che uccidono gli animali. Sì, esattamente questo, una signora animalista, ragazzi, estremista animalista di Bologna, non so allora, dove che dire, a Ibiza. Ovviamente, Fukushima, perché mangiano le balene, E in Emilia perché? Perché fanno il parmigiano, cioè qual è il nesso logico? Vabbè, ma non è un'ora e mezza, sono due giorni che ce lo chiediamo, adesso te ne esci tu questa cosa. Ma non mi stupisco affatto che Hitler fosse un animalista vegetariano. Sì, anche se ci sono molto, anche se ci sono molti dubbi su questa cosa. No, non credo che ci siano dubbi, perché la storia parla chiaro. Mentre infornava i poveri ebrei, mangiava l'insalatina. Cioè, ma stiamo parlando di cose assurde. Allora, io ho sentito insieme a quest'altra cosa alcune persone, visto il video, hanno smesso o intenderebbero smettere di aiutare economicamente le popolazioni. No, allora il professore maestro Benetazzo, economista o presunto tale, in realtà uomo uno che fa affari con Malta, insomma fa il suo mestiere di broker, intermediario, non so che straminchia fa. Comunque professor Benetazzo sostiene che molte persone dopo aver pubblicato il video in cui spaccano le teste degli animali con le asce in Nepal, questa famosa festa, questa è una cosa terribile, ma lo sappiamo tutti. Allora dice che molte persone dicono ho preso consapevolezza di cosa sono i nepalesi, non manderò più un euro in Nepal, mandate tutti a fare in culo con questo. Mandatemi a fanculo, ma veramente, allora diciamo una cosa forte e chiara, raddoppiamo il nostro impegno nei confronti di queste popolazioni, vabbè, è una sciagura terribile. Cioè, vabbè. Federico, ciao, Piero da Catania, ciao. Vai Piero. Pronto? Dimmi. Ciao Luciani, ciao Parenzo, grazie di esistere. Vai. Io nella mia trattoria faccio ogni settimana la sagra dell'agnello, il festival dell'agnello. Sì. Nel senso che cucino agnello sempre in maniera diversa. Il terremoto succede quando non c'ho l'agnello da cucinare, perché i clienti si incazzano. Beh, è normale. Digliela a questi che fa il festival dell'agnello. Ogni settimana il festival dell'agnello. Bravo. Lo sto dicendo con una buona parte dei nostri amici animazisti. L'agnello, e adesso che non c'è agnelli, perché a Pasqua c'è stata una strage di agnelli, adesso faccio la pecora. Beh, siamo al top, la pecora, bella spezzata, la pecora. Tu la pecora, ottima la pecora, fantastica, ottima. Fantastica. Vabbè, ciao Piero. Alessio, ciao. Provincia di Pisa, vai. Alessio, pronto Alessio? Vabbè ragazzi, pubblicità, torniamo tra un attimo, è 800 24 00 24. La Zanzara. Allora, cosa è successo ieri sera alla Zanzara, ragazzi? A un certo punto un amico, un ascoltatore da Ibiza, uno di quelli pazzi della Zanzara da Ibiza in streaming, eccetera, sente la storia della signora che c'è al bar a Ibiza, animalista, che si rallegra, dice bene, ci dovrebbero essere altri terremoti, se lo sono meritato, ammazzano gli animali, eccetera. Mi manda un messaggio e dice scappo al bar di questa se volete. Vai pure, gli ho detto, e mi lascia il numero di telefono. Una volta di fronte al bar, ci scambiamo dei messaggi, si introduce dentro il bar e intercetta questa signora, la signora Nassetti. Seconda parte. Tu sei Patrizia per caso? Io stavo ascoltando una trasmissione alla radio, chiedevano se qualcuno vive a Ibiza, se potevo venire qua e passarti il telefono. Posso passartelo, però ambasciatore non porta pena, questo è il mio telefono, non è che si fanno incazzarmelo anche. Ciao. Pronto? Ah, signora, salve, sono del fronte animalista. Volevo farle i complimenti più vivi e sentiti per questa cosa straordinaria che ha scritto su Facebook. Grazie. È il primo che lei mi dice così. Sa che ho avuto minacce, cose tremende? No, ma non mi dica. Ma ha fatto appena, una... Ma cos'è che ha scritto? Perché io ascoltavo quella trasmissione immonda con quel cretino lì, non mi ricordo mai come si chiama, Crucani, ma insomma, invece io ho visto questa cosa che lei ha scritto straordinaria. La ringrazio. Ma cos'è esattamente quella frase che mi ha colpito? Cioè che il terremoto ha portato via, no? Ha distrutto? Se lo sono meritato, no, insomma. No, io non ho detto che se lo sono meritata. Io questo non l'ho mai detto. Io ho detto che loro fanno delle stragi di milioni di animali. Certo. Cioè milioni, milioni, milioni. Io ho pubblicizzato oggi su Facebook la fotografia di quello che loro fanno. E questo e terremoto... Allora ho detto che siccome non c'è la punizione divina, questa volta il karma ha colpito. Punto e basta. Punto e basta. E in fondo se lo sono meritati, perché con tutta la cattiveria che hanno con gli animali, per me l'animale è uguale all'uomo, anzi, prima l'animale c'è per me e poi l'uomo. L'uomo. E poi l'uomo. Beh, meno l'uomo male che c'è gente in giro così, meno male, perché c'è tanta cattiveria, questi carnivori che poi sono violenti, chi mangia la carne è persona violenta, cattiva. Brrr, o no? Guardi, dovrebbe venire uno tsunami adesso in Cina, in Cina dovrebbe venire veramente uno tsunami, veramente. Ma ha mai pensato di candidarsi, ad esempio, fare una bella lista? No, guardi, non mi candido, anche perché io sono venuta a vivere a Ibiza perché esco dall'Italia da una situazione drammatica. Beh, ho capito, ma questa roba della Cina, perché in Cina ci sono tutti questi cani, mangiano i cani in Cina. Li mangiano, li fanno, li scuoiano, li bolliscono vivi. Ci vorrebbe, io lei tutti dice... i video... Anche io lì tutti, ci vorrei, video, tutti i video li bolliscono vivi, li vivi, mettono nell'acqua vivi. Bollente vivi. Ci vorrebbe anche lì un bel terremoto anche là. Sì, ci vorrebbe uno tsunami lì, uno tsunami, uno tsunami anche lì. Vom, via. Infatti, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Va bene, grazie. Ma sa che è veramente una personcina speciale lei, comunque, questo volevo. Mi venga a trovare qui a Ibiza. Però ci sono anche dei bambini morti lì in Nepal, questo è un po'. Beh, no, effetti collaterali. Purtroppo, lo so. Pur di salvare gli animali. Purtroppo i bambini ci rimettono sempre per gli adulti. Per colpa degli adulti, certo. Certo. Hasta luego, allora. Hasta luego, hasta la vittoria anche, tanto. Allora andiamo a Milano, 800 24 00 24. Bruna, vai. Bruna? Buonasera, dimmi. Niente, io non sapevo la storia degli animali, di conseguenza ero molto dispiaciuta per il terremoto, perché dico povera gente. Certo. Però adesso che ho sentito la signora e poi l'altro signore che ha descritto tutta la situazione, sono molto contenta che sia venuto il terremoto, anzi leggo lo scosso ancora più potente e che azzeri al suolo completamente tutto. Allora, cara Bruna, fermi tutti, lei ha visto ma il no, video? Ma no, fermi, mandagli subito. Fermo lì. Ma è matta. Ma questa è fuori di testa. Però capiamo bene cosa c'è ma nel cervello di Bruna. No, fermo, dammi un minuto e 40 per spiegare a Bruna una cosa. Allora, Bruna, voglio capire che cosa hai nel cervello, ecco, capito? Vabbè, ma no, ma vabbè. In senso proprio tecnico. Ma hai visto quel video là dove quelli con la... No, non l'ho visto il video e non lo voglio vedere, però posso immaginare. Comunque, siccome io sono molto vendicativa, nella vita tutto si paga. E probabilmente stanno pagando quello che hanno fatto, quello che stanno facendo. Io sono dell'avviso che proprio tutto si paga. Allora, e poi un'altra cosa, posso chiedere un'altra cosa? Ma sono morte migliaia di persone, migliaia. Io non me ne frega niente, anzi, meno male, ne morissero di più, così facciamo un po' di pulizia. Scusi, ma perché Bruna? Non è nonnina, quanti anni ha lei, Bruna? Quanti anni io sono vecchia, sono l'amica e oltretutto la nemica di Darin Roberto. La? Nemica di Darin Roberto, siamo vicini di casa. Di chi? Darin, quello di Radio Padania? No, Darin. Ah, di Roberto Darin. Vabbè, ma chi se ne frega, uno del Sole 24 Ore. Ma io adesso, con tutto il rispetto, per carità. Però scusami Bruna, io non ho capito una cosa. Tu che cosa hai nel cervello? Cioè, le pigne. Che cosa ho nel cervello? Io sono stata molto chiara. Ho detto quello che penso e lo ridico. Non ho nessun rimorso per quello che dico. Di conseguenza, e anzi, posso chiedere un'altra cosa, se posso. Vai. Ho sentito una settimana fa a Radio 24, perché ascolto sempre la vostra radio, sì, che praticamente Andreotti era il mandante di Borsellino. No, veramente non lo so dove l'hai sentito. No, scusami, nulla, Bruna, io. Lei, come scusi, mai, Bruna. Ma io non so di cosa stai parlando. Bruna! Radio 24, Bruna! Sentito, sì. Bruna! Lei ha già detto una follia esorbitante. Non aggiunga a follia esorbitante altra puttanata esorbitante, per cortesia, perché è già grande il danno che lei ha fatto, capito? È già grande. Ma guardi, non mi interessa, di conseguenza il danno che fanno loro è molto più grande. Cara la mia nonnina, non credo, perché lei non ha pietà per i nepalesi? Scusimi, Bruna. Guardi, io avevo compassione, dico, povera gente, fino a un'ora fa, quando ho sentito le atrocità che fanno, e di conseguenza ho cambiato opinione. E dunque? Posso cambiare opinione. Ma lei può fare quello che vuole. Anzi, venga anche in Cina e venga in tutti quei paesi che fanno queste atrocità. Di conseguenza proprio non me ne frega niente. Anzi, venissi tutto il mondo così faccio un po' di pulizia. Ma scusa, i bambini che muoiono? Senti, i bambini poi diventano grandi, quando diventano grandi diventano degli uomini, cose sparasano di quegli individui. Ma lei fa lei è un essere schifoso, lei lo sa che è un essere schifoso. Ma guardi, non me ne frega proprio niente quello che pensi, pensi per lei. Ma lei è un essere, un essere schifoso. E lei è un essere schifoso, schifoso, peggio di me addirittura. Beh, proprio umiliata. Prenda atto che ormai è tutto finito. Allora, sentiamoci questa Sardone, Forza Italia, come sapete, astronascente, molto criticata dai big del partito, oggi anche da Lara Comi, che ha scritto: io ho preso 84.000 preferenze, non mi puoi rompere i coglioni per le cose che dici. Non ha detto coglioni, sono vabbè, sicuro. Lo so, ma la signora Comi, sono praticamente sicuro che non ha detto Sardone così. Contro Lucarelli sulla questione dei rom. Ma manda anche il mio jacuzzi terribile che ho fatto ieri, straordinario. No, sinceramente me ne fotto, lo sai, aspetta mandalo un attimo subito, sentiamo questa cosa. Fa ascolto, manda. Al centrodestra moderato che qui stasera è rappresentato dalla Sardone, che per liquidare la faccenda rom parla di rom che rubano i bambini. Ecco, per me questo è un messaggio e un linguaggio, come hai detto, l'hai detto prima, i rom è un po' più complesso. Se vuole tornare io ho parlato di una conferenza fatta nel 2009 a Roma. Vabbè, i rom rubano i bambini. Ma no, io sto parlando, no, questi non ho detto, non l'ha detto. Io ho detto che ascolta, glielo ripeto, perché forse così prego, vediamo se mi comprende. Prego, da un censimento fatto era venuto fuori che quasi la metà dei bambini che erano nei campi nomadi, appunto della popolazione dei campi nomadi, era minore, e non tutti i minori che erano all'interno dei campi nomadi erano figli dei nomadi lì presenti. Cosa vuoi e dire? Quindi questo, le conclusioni le tragga lei. Ah, le tragga lei. Io mi limito a guardare i dati. Se lei è arrivata a quelle conclusioni, vabbè, comunque. Alla fine la Sardone, non si capiva una mazza, che cosa chiede? Dice semplicemente che bisogna controllare che i figli dei rom siano i loro figli, punto. Ah, stupidaggine. Ma non ho capito, ma vecchia diceria, ma ha fatto benissimo, signora Lucarelli, ad azzannarla alla caviglia, perché azzannarla, è una diceria, perché è una diceva, il contesto era questo, è una diceria popolare che i rom rubano i bambini, perché lo si è detto nel corso dei secoli. Sì, ma degli se anni, uno va eccetera a fare una controllatina, allora, non è male se uno fa una controllatina. Tu capisci la follia. Ma se tu vai a fare una controllatina, ma controllatina sui figli di che cosa? Ma allora, guardiamo tutti gli stereotipi. È sbagliato, ma allora controllare. Ma che è uno stereotipo, anche tu ti ci metti ancora, Zucca. È uno stereotipo non che si è raccontato allora, nei... Non controlliamo. Non ma controlliamo. Che cosa vuoi controllare? Fermi cosa tutti, in diretta dalla Calabria, Vincenzo detto Enzo Bacalebre o Bacalebre, non so bene il cognome. Buonasera. Buonasera, dottor Parenzo, Bacalebre. No, quello è Cruciani. Cruciani, ma come? Ma chi è? Io sono Cruciani, quest'altro è Parenzo. Chi com'è Bacalebre? E ci siamo imbrogliati, non so. No, non c'è problema. Ma chi è adesso? Alleanza Aspetta, Calabrese? Fermo lì, devi stare calmo. Vincenzo, sì. Enzo Bacalebre è un mio ospite, cerca di rispettarlo. Ma perché cos'è? Mi... Cos'è, no, cos'è allora, però? Presidente di Alleanza Calabrese, sì, o sbaglio? No, giusto. Giusto, Alleanza Calabrese. Allora, un minuto di pubblicità, poi torniamo con lei, perché oggi è successa una cosa gravissima, Parenzo. Una cosa di una gravità inaudita, dopo te la spiego. Monellacci. La Zanzara. Circola una bellissima un bellissimo fotomontaggio sul web in cui c'è Agnese Renzi accanto Renzi, no? Agnese Renzi che dice: com'è che l'unica riforma che si è riuscita a fare è quella che velocizza il divorzio? E lui che dice: Agnese, stai serena. Stupendo. Allora, Vincenzo Enzo Bacalebre, giusto? Giustissimo. Bacalebre, allora è successa a Parenzo una cosa gravissima oggi. Il signor Bacalebre aveva organizzato una messa, una manifestazione, no, una messa, diciamo, una, no, una messa. Mi scusi, sì. Enzo. No, assolutamente. Scusami, Enzo. Allora, 28 aprile 45, 28 aprile 2015. I camerati reggini ricordano a 70 anni dal suo omicidio Sua Eminenza, giusto, Enzo? Sua Eccellenza Benito Mussolini. Aspetta, Parenzo, stai calmo. Tutti i caduti della Repubblica Sociale Italiana e tutti coloro che hanno creduto nell'onore e nella grandezza del popolo d'Italia. Una santa messa sarà celebrata in suffragio a Reggio Calabria martedì 28 aprile alle ore 11 presso la chiesa di San Giorgio al Corso. Allora, caro Enzo, che è successo oggi invece? Oggi è successo, cioè è quello che è successo ieri praticamente, perché sì, oggi la messa è stata annullata. Non annullata, è stata bloccata. Bloccata. Non bloccata. È stata annullata. È stata sospesa la messa. Bene. Non avete potuto fare la messa, ma quanti eravate a voler fare questa messa in onore di Mussolini, di sue mie? Cioè... Io vorrei partire. Partiamo da dove? Da un po' prima. Sì. Partiamo dal fatto che da 40 anni a Reggio Calabria si celebra ogni anno questa messa. Questa messa. Però, Parenzo, quindi la messa ormai... non fa male a nessuno, una messa in onore di Mussolini. Mi sono preso dei calmanti. Andate avanti, sì, certo, sì. Punto esplodo, andate avanti. Allora? Ho preso dei calmanti. Ma oggi perché? Che problema c'è stato oggi? Il problema c'è stato che praticamente da ieri mattina alcuni esponenti del PD parlamentari locali, sì, il sindaco hanno detto una vergogna, hanno intimato all'arcivescovo di sospendere annullare la e l'arcivescovo male. Che ha fatto? L'arcivescovo giustamente gli hai seguito. Allora io voglio capire una cosa da Enzo, aspetta un attimo, perché tu parli di omicidio di Mussolini? E allora, perché credo che la storia ci dica questo, cioè che fu un omicidio. Mussolini non è stato giudicato da... cioè fu un omicidio. Ma per te un grande statista è stato Mussolini? No, per me è un padre della patria. Sicuramente sì, ha fatto il suo percorso politico di quegli anni e sicuramente sì, da quando è uscito fuori da dove? Nel tempo. Sì. No, nel senso, quando ha iniziato il suo percorso politico, sì, comunque le riforme in Italia si sono cioè, voglio dire, si stava meglio poi, fermo restando che comunque il fatto di onorare una persona non significa andare a vilimare tutto quello che... Vabbè, se uno dice omicidio, Sua Eminenza Benito Mussolini, tutti coloro che hanno creduto all'onore... Enzo, diciamo la verità, tu sei fascista, diciamola tutta. Io sono fascista. Tu sei fascista. Figlio di fascista. Ecco. Sei fascista. Io sono fascista e sono figlio di fascista. Fascistissimo, anche fascistissimo, possiamo dire. Si è arruolato volontario a 17 anni. Ma io mi vergognerei a dire una cosa, ma non più di tanto, dottor Parenzo. Repubblica Sociale Italiana. Questo non credo. Una Repubblica fantoccio venduta ai tedeschi, ma insomma non importa. Vabbè, ma capito, ma... Vabbè, qua stiamo parlando degli ultimi anni, dottor Parenzo. Però no, scusami, Enzo. Stiamo parlando di una follia totale. Scusami, Enzo, ma tu pensi davvero che sia stato un padre della patria? Ma cos'è l'alleanza calabrese? Aspetta. Perché il dramma arriva anche lì. Però spiegami se Mussolini è stato un grande statista, secondo te. C'è stato proprio un... Sì, secondo me è stato un grande statista, è una mia convinzione, certo, così certo, come rispetto tutti quelli che dicono che Mussolini è stato... Cioè, voglio dire, se ci fosse d'Italia, di nuovo Mussolini in Italia, si starebbe alla grande, secondo te? Guardi, ci potrebbero essere, dei passaggi sicuramente migliori di quello che sta sopportando l'Italia. Cioè, con Mussolini adesso si fermo restando, fermo restando che sempre fermo restando. Oggi siamo nel 2015. Beh, quello non c'è dubbio, lo sappiamo. E quindi rispetto a 70 anni fa qualche accorgimento dovrebbe prendere, diciamo, qualche cambiamento, sì, piccolo avrebbe potuto prendere qualche piccolo, sì, cambiamento piccolo bisognerebbe farlo, diciamo, no? Questo è il nostro pensiero. Tieni conto che io sono fascista, sì, ma a livello ideologico non, sì, ho mai fatto niente né contro le persone lo Stato. Ma Renzi assomiglia un po' come modo di fare al signor Mussolini o no? ma non mi vorrei esprimere più di tanto, perché come modo di fare Renzi ha un suo percorso personale. Però come si dice, come piglio, no? Livello, come piglio. Ho capito. No, forse oggi trova un terreno più fertile Renzi a livello di... No, ma come piglio, sembra nuovi, un po'... Di sembra, operai, diciamo. Sembra un po' il Duce, no? Come piglio, no? Sì. Lo fa pure Crozza come il Duce, o no? È tipo qui comando io, può darsi che c'è questa cosa, ti piace questa cosa qua? Un lato. E no, Renzi sicuramente no. Un attimo solo, fermo che c'è il traffico. Renzo, Parenzo, dopo tocca a te, mi raccomando, giù duro. Il traffico è il problema. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Allora ragazzi, il presidente dell'Alleanza Calabrese, il signor Enzo Baccalebre, aveva organizzato per oggi una messa in onore di Mussolini a Reggio Calabria. Il vescovo l'ha bloccata. Parenzo, vai. Allora, mettiamoci un attimo d'accordo, caro Baccalebre. Primo, l'alleanza, cosa sia l'alleanza calabrese magari lo scopriremo nel corso di questa lunghissima diretta, ma il mio punto non è tanto questo, quanto un simpatico signore di nome Vincenzo, detto Enzo Baccalebre o Vacalebre, non lo so come si dice, si proclama apertamente ai microfoni di Radio Nazionale ascoltatissima come un fascista, anzi un fascistissimo. Lamenta in più che una messa in onore dell'emerito, non mi ricordo come, sua eminenza, non è stata celebrata. Lamenta che non è stata celebrata tale messa. Ma io dico, ma dove siamo? Ma siamo alla follia totale, caro Baccalebre. Ma anche soltanto l'idea di intervenire in diretta e proclamarsi fascista nel 2015 con orgoglio, basterebbe soltanto questo, amico mio, basterebbe questo. Ma basterebbe a fare cosa? Baccalebre mio, ma come basterebbe a fare cosa? Lei mi manda ai matti. Mi dica padre. Ma padre è un cacchio, amico mio, ma come si fa? Io ho pietas per lei. Un tono ecumenico, quindi mi stavo comprimendo pure nella... Ma non c'è comprimento, ma uno che compone l'otto, anzi non compone, uno che dice va bene, intervengo alla Zanzara e spiego perché la messa a favore di Mussolini e poi dice sì, io sono fascista, amico mio, non è normale, si fidi, non riesco neanche a essere arrabbiato, capito? Non ce la faccio più. Vabbè, comunque se uno c'ha, lei ce l'ha qualche busto di Mussolini a casa? Ma avrà di tutto, avrà questo signore. Io ce l'ho qui a casa mia, c'ho anche quello di Stalin in realtà, Ce l'ha qualche busto, Baccalebre? No, volevo prendere coscienza dello status del dottore Parenzo. Vabbè, Parenzo, sei infervorato. Ma non mi sono infervorato, devo prendere coscienza io di un signore che alle 20:21 del giorno di maggio decide di telefonare e dire che è fascista oggi. Io di questo devo prendere ancora coscienza, di uno che ha coraggio. Vabbè, Baccalebre, hai busti a casa o no? Ha qualche busto, qualche ricordo, qualche cosa? Sì, è un collezionista di cose fasciste o no? Ma guardi, non più di tanto. Non più di tanto, vabbè. Ne ho qualcosa che ha portato mio padre dalla sua comunque sta messa non si è fatta. Meno male. Vabbè, se ce mi avete una fatto chiamare per dire questo, va bene così. E che dobbiamo dire? Ci dispiace che non ha fatto la Calabria, arrivederci, grazie. No, arrivederci. Qual è il problema? Dimmi. Secondo me che oggi, parlando di uomini... Credo che in Sicilia si celebrino messe per i mafiosi, giusto? Senza che nessuno dica niente. Oggi si voleva ricordare un grande uomo, secondo lei. Anche grande uomo. Un buon cristiano, magari. Ma comunque in mezzo a migliaia di cristiani morti, qualche grande uomo. E le leggi razziali? Ci sono anche i patti lateranensi, le leggi razziali, ci sono tante altre cose e credo che comunque in Italia... Cioè sono più i vantaggi razziali che abbiamo avuto rispetto agli svantaggi del fascismo? Guardi, e credo che comunque quando si parla di guerra è guerra in tutti i posti. Anche ma abbiamo, dal fascismo abbiamo avuto più vantaggi o svantaggi? Guardi, credo che la popolazione di base stava abbia, bene, stava. In quel periodo ha ricevuto più vantaggi. Poi, stavamo alla grande. Ci può essere il revisionismo, il revisionismo, insomma, è l'olio di ricino, la repressione, la democrazia, vabbè, lasciamo, pop, gli arresti, vabbè, ma chi se ne frega. Vabbè, ma sì. Arrivederci, facciamo... la Calebre, grazie, arrivederci. Vabbè. Grazie, grazie arrivederci. A voi, arrivederci. Allora, Mattia, provincia di Modena, vai Mattia, vai. Salve, io chiamavo per due grandi iniziative. Grazie, vai, una vai. Sarà, una sarà una grande, nuova, nuovissima inchiesta della Zanzara. Però prima volevo organizzare una grigliata con tutti solo carnivori, sì, a Ibiza, tipo metà luglio, sì, di fronte al bar di questa signora. Che beh, questo sarebbe molto interessante. Grande raduno della Zanzara a Ibiza. Come a Ibiza, no? Però solo carnivori, cioè neanche condimenti. Oh, ma non è per forza carnivori. Chi vuole mangiare la carne, mangia la carne. Chi vuole mangiare vegano, mangia vegano. A me non mi interessa. Basta che uno non mi rompe i coglioni, come quei buddisti a casa, certo, mia, che mi rompono le, no, balle, ecco, con la nenia. Guarda, non mandi più in onda quei versi perché mi è venuto il mal di testa. Ma guarda, Mattia, ma io li ho mandati in onda apposta per dimostrare che rottura di coglioni devo subire ogni giorno. Cosa ti fa? Ogni giorno entro a casa. Ogni giorno, dai, su. Non so se rompe più i coglioni questo buddista o Parenzo, non lo so, comunque. Ma siete delle persone intolleranti. L'altra iniziativa qual è? È un'altra, una grande inchiesta della Zanzara che è serissima, secondo qual me. Qual è, Mattia? Queste animaliste, insomma, molte sono donne, non tutte. No, molte, però, è vero, molte sono donne, sì, è vero. Soprattutto sono donne, ma sono più animaliste queste donne che dicono di non mangiare carne, bisognerebbe vedere, o quelle che fanno il sesso con gli animali. No, vabbè, sesso con gli animali, tipo, no, ma tipo la signora Cicciolina che è... Ma quello è successo solo grande... qualche volta, dai. È stato pure... Ma quello è fuori legge, non si può fare, dai, su. No, certo, no, ma io non sono a favore, è solamente una provocazione, ovviamente mi fa schifo anche a me, però dai, su, è una porcheria. Amici, quando si scherza, sono più animaliste, secondo me loro fanno più del bene agli animali loro che una... Se tu dici che alla fine... chi è animalista, se fosse coerente, no, dovrebbe fare sesso con gli animali, però questo qua non è sbagliato. Cioè, tutte le donne che dicono: attenzione, no, questo qua è un argomento molto interessante. Cioè, secondo me, mi è venuto in mente adesso: se tu sei una che dice, perché abbiamo sentito soprattutto donne fino adesso, anche uno credo ieri, ma forse no, solo donne. Allora, se sei una che dice gli animali sono esattamente come gli uomini, no? Alla fine devi essere coerente. Cioè, se vai a letto con gli uomini, vai a letto pure con gli animali. Non credo. No, ma questo non, però è chiaro che è una cosa che fa orrore, però ci dovrebbe essere una coerenza anche in queste cose. O sbaglio, Mattia, seguimi su questo discorso. Ma questo infatti credo che diciamo che è una provocazione, fa schifo anche a me, però se siamo uguali, allora se siamo uguali, allora andate a letto con gli animali. Ma, no, ma, che ma come no? Ma come no? Grazie, Mattia. Ma è Walter, Roma, vai. Pronto? Sì, pronto? Sì, Walter, via. Buonasera, ciao Grugiani. Grugiani, sì, vai. Ti ascolto te. Niente, volevo dire che questa legge elettorale dell'Italicum è veramente una porcata. Ma perché è una porcata? È una porcata perché l'hai detto pure tu, pure prima, che non so, una percentuale da diritto a 34 deputati in più della maggioranza e quindi con... questa situazione. No, ma io lo dicevo, lo dicevo perché questa accusa, sì, che si fa alla legge elettorale di essere una legge dittatoriale, la maggioranza, un solo partito, una delle accuse che si fanno all'Italicum, in realtà è abbastanza assurda se ci pensate, perché sì, si passa attraverso due turni e un partito può anche prendere, diciamo, il 28% o anche meno alle elezioni e poi vincere al secondo turno dove comunque si vota, dunque c'è un passaggio popolare, prendere alla fine credo il 55% dei seggi. Ma cosa significa il 55%? Significa alla fine una maggioranza ribaltata in mille modi, capito? Dai, appunto, su. Appunto, sì, è una brutta cosa, una brutta pagina per la democrazia in Italia. Ma quello, non lo so, vabbè, sì, secondo te è una brutta pagina per la democrazia? Io credo che Renzi sia diventato un piccolo ducetto. No. Vabbè, ma questa è una vulgata. Guarda, dai, in realtà, come ha scritto giustamente ciao su Twitter, Parenzo, ciao caro, ciao. Dimmi. In realtà, come ha giustamente scritto su Twitter David Parenzo, la questione di fiducia è in realtà questione di sfiducia nei confronti del suo, sì, PD. Ma non ci fare adesso, cioè, due Parenzo, coglioni così con i tuoi ragionamenti, in questo con i tuoi tweet, ragionamenti antiradiofonici, no, dai, no, su. In questo tweet, giustamente, giustamente Parenzo mette in evidenza una cosa, cioè che la questione Parenzi pone la questione di fiducia, in realtà la pone perché è questione, come questo scrive Parenzo, è questione di sfiducia nei confronti del suo PD, cioè siccome non si fida di come voterà il PD, mette la questione di fiducia. Questo l'ha detto, questo chi è sto Parenzo? Ah, l'ha scritto ha scritto in un tweet oggi questa David cosa Parenzo, che effettivamente è abbastanza acuta ed è stata ritwittata anche da Storace, questo mi spaventa un po'. Va bene, David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ho capito, però. Daniela da Trapani. Daniela da Trapani. Bene. Buonasera, Cruciani. Buonasera, cara Daniela, dimmi, cara. Allora, io guarda, voglio iniziare semplicemente con una citazione famosa di Pitagora. Qualsiasi cosa gli uomini facciano agli animali verranno ripagati con la stessa moneta. Beh. E questo lo diceva Pitagora. Sì. Ora io, adesso bizzarrisciti su quello che io sto dicendo, io sono contentissima di quello che è successo nel Nepal, ovviamente escludendo bambini e tutte le persone per bene che vivono in quel paese, ma sono contentissima del terremoto e di tutti quelli che sono morti sotto le macerie dopo aver visto quel video orribile, tremendo, di quello che fanno quei poveri animali in quel festival. No, scusami, non capisco perché dici mi dispiace per i bambini. Ma hai detto che sei contenta per il terremoto? I bambini sono morti, tra l'altro sono morti pure gli animali. I bambini non sono complici di queste atrocità. I bambini non c'entrano niente. Scusa, ma per te gli animali sono contenta. Sei contenta di che cosa? Non ho capito. Sei contenta di che? Sono contenta della morte di migliaia e migliaia di persone complici di queste atrocità che contano sugli animali. Scusami, perché ma tu per te gli animali sono guarda, Cruciani, scusami, ti do un consiglio. Perché non vai con il tuo quella mezza costuccia che ti trovi di giornalista a fianco? Come va a casa, signora? Andate nel Nepal tutte e due. Chissà che magari una piccola scossuccia vi prenda tutte e due. No, scusami, Daniela, durando la morte. Aspetta. Scusami, Daniela. La nonnina. Il tuo succede, guarda, tu sei molto furbo, guarda. Daniela, ma per te gli animali e gli uomini sono la stessa cosa? Sì, la stessa identica. No, gli animali sono molto, molto. Ma perché non scopi con gli animali, guarda, allora? Perché non vai a letto con gli animali? Vai a letto con gli animali, allora. Vai a letto con gli animali. Vai a letto con gli animali. Vedi, Cruciani, tu riesci a fare audience provocando la gente. Vai a letto con gli animali. Vai a letto con gli animali. Tu hai ascolto provocando soltanto la gente. Mi fai orrore. Vai a letto con gli animali. Non ti cacerebbe nessuno. Vai a letto con gli animali. La vita, vai a letto con gli animali. Scusi, nonnina, come fa a dire rispetta la vita lei che ha appena detto che è contenta di quello che è avvenuto in Nepal? Ma guarda, io le dico soltanto ma lei è pazza. Ma queste persone che sono morte sotto le macerie forse non gioivano quando uccidevano atrocemente degli animali che nulla hanno fatto, che nulla hanno fatto agli uomini per meritare una simile. Senti, mi fai veramente schifo. Non gioire io della morte di una persona. Gioisci, però gioisci, ma fai sesso con gli animali. Fai sesso con gli animali. Fai sesso con gli animali. Fai sesso con gli animali. Fai sesso con gli animali, sei coraggio. Assurdi, che paragoni. Fai sesso assurdi, con gli animali, sei coraggio, ma, vergognati. Ma guarda, tu sai rispondere soltanto in questa maniera idiota, perché più, ma no, so rispondere in altre, mi sono rotto le palle dopo 3 giorni, per cui adesso ti rispondo così. Siccome per te gli animali e gli uomini sono uguali, allora fai sesso con gli animali. Fai sesso con gli animali. Sono uguali. E non è escluso che l'hai già fatto. E non è escluso che l'hai già fatto. E non è escluso che l'hai già fatto. Sono migliori dell'essere. Aspetta, fermala, ferma lì. Siamo uguali. Ferma lì, ferma lì. Hai detto che sono uguali, anzi meglio, ferma lì. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Zanzara. Scusami, ti do un consiglio. Perché non vai con il tuo quella mezza costuccia che ti trovi di giornalista a fianco? Tutte e due andate nel Nepal, tutte e due. Chissà che magari una piccola costuccia vi prenda, tutte e due. Perché siete delle persone insensibili. Ma è scappata la signora? È scappata sta maledetta. Le interruzioni, ragazzi, porca la puttana. Guarda. Ah, non risponde più? Non risponde più, Non risponde più. Vai a fare sesso con gli animali. Ma no, vai a fare sesso con gli animali, se hai coraggio. Dai, su. Francesco, provincia di Latina, vai. Sì, sono nato a Savoia dove tutti gli imperi e tanto che tento di fare. Sia quella pazza che ci tocca quando andiamo in albergo a dormire sul letto dove lei ha dormito con gli animali. Vabbè Francesco, io lo dirò, che stai a fare? Stai a morire? Sei agonizzato? No, io ho fatto per dire, perché non sopporto questa gente che vi offende. Vabbè, non ti preoccupare, ci sappiamo difendere. Francesco da Sabaudia, dimmi. Allora, io devo parlare di Zingari, sarò brevissimo. Sì, dimmi. Latina, c'è due famiglie di Zingari che la comandano. Che comandano cosa? Che comandano Latina? Comandano la città, perché se lei deve aprire un bar, sì, prima deve andare dagli Zingari. Se le dà il permesso, addirittura può andare. Siamo messi peggio. Siamo messi hanno peggio. Perfino la squadra di calcio come ce l'hanno iscritta. E gli arbitri devono dargli 2-3 rigori. Vabbè, così Francesco, adesso dimmi come si chiama sta famiglia di Zingari e faremo le grandi inchieste della Zanzara. Dai, dimmi. Di Silvio una e l'altra, ma io non lo vorrei dire perché li conosco anche, mi conosco. Vabbè, Francesco, cosa ci vuoi dire allora, raccontandoci che ci sono due famiglie allora, di Zingari che dominano? Non bisogna credere. No, che i Zingari c'è in tutte le società gli ultimi, ma questi sono straricchi. Sì, in molti casi è così, scoprono di... Io ho assistito alla festa Arcinasso, la festa nazionale, sì. I dirigenti sono arrivati con 2 Ferrari e 1 Rolls Royce. Allora, avere tutto il topietismo di questa gente che ruba. Io ho avuto un esempio, che esempio una ragazza che veniva da Cusco, assunta all'Uvale di Assamitano, gli hanno rubato. Vabbè, non si sente più niente, Francesco. Allora? E allora io dico: non abbiate pietà per questi Zingari, che non è vero. E che dobbiamo sono fare? Tutti ricchi, che dobbiamo fare? E non vogliono allora lavorare. Che dobbiamo fare allora? Beh, non bisogna, c'è tutto un pietismo, vai, vieni. Io non sono come. Vabbè, ho capito bene. Marcello da Ferrara, Francesco, ho capito. Marcello Ferrara, vai. Pronto? Dimmi, dimmi. Allora, innanzitutto volevo dire, ritornando al discorso del buddista che parlavate prima, che lei è ignorante. Sì, quello sicuro. Non vorrei offenderla, ma sì, ignorante perché ignora il discorso. Sì, ma non stavamo parlando. Della filosofia buddista, amico mio. Mi fa parlare. Lei ha detto... che vicino a casa sua c'è gente che fa per un'ora e mezza quelli si chiamano, sono dei mantra, certo, che certo. Milioni di persone nel mondo buddiste tutti i giorni fanno per mandare energia positiva nei posti dove c'è energia negativa. Sì, ma tu hai la voce, tu hai la voce di uno che ha bevuto, secondo me, però mi ascolta? Sì, ti ascolto. Hai bevuto un po', no? Non hai bevuto, no? Di più, in questo momento sarà fatto una gara. Ci siamo mobilitati tutti quanti. Ma chi? Ci siamo tutti. Il web, noi buddisti. Voi buddisti, ecco, i buddisti. Sì, stiamo pregando perché possiamo fare solo dei mantra. Perché se lei sa la situazione, a te serve qualcos'altro, i tibetani, sa chi sono i tibetani? Sì, sì, sì. Ecco, sono praticamente neanche trattati come le merde, ma peggio dai cinesi. Vabbè, Marcello, noi radicali diciamo sempre Tibet libero. Tibet libero. Noi diciamo sempre, ha ragione, Marcello, Tibet libero, la battaglia dei Falun Gong. Andate a vedere chi sono i Falun Gong, www.radicali.it, Falun Gong. Vabbè, Pannella, adesso si calmi. Marcello, io non ho capito bene, amico mio, ma ti sei fatto qualcosa? Una canna, un bicchiere di vino di troppo? Pronto? Sì. Hai capito cosa ho detto? Sì, ho capito, Marcello. 20.000 tibetani stanno morendo a soli. Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? Ma non vengono aiutati perché ci sono di serie neanche C, Z. E quindi vabbè. Chi vuole aiutarli? Vabbè, Marcello, ho capito. Ciao, Alessio, provincia di Pisa. Dai, mamma mia, che palle. Oh. Alessio, vai. Mi senti? Sì, dimmi, Alessio, dimmi. Senti, ti volevo dire una cosa. Ma allora, io chiamavo per una cosa molto importante in Italia. Io vorrei che venissero riaperte le case chiuse, perché qui non si sa più come fare a trombare. Scusa, non ho capito bene. Non si fa. Beh, se uno può trombare anche senza le case chiuse, Sì, monopolio anche quello, ma siccome nelle case chiuse è più protetto, io voglio divertirmi, io voglio andare a divertirmi, io sono sposato, sì. E quando voglio fare una scappatella io voglio andare in una casa chiusa dove sono tutelato. Bravo Alessio, ma questo no. No, ma dici benissimo. Vabbè, scusa, mi puoi passare tua moglie però? Ma mia moglie, anche lei ci pensa andare nelle case chiuse. Io, è una famiglia un po' aperta la nostra. Questo è il primo punto. Proprio vi volevo dire. Ma scusa, ma fate cosa. Scambio di coppia allora, no? Va bene, ma a me mi garbano. Ma voglio essere tutelato, io lo faccio lo scambio di coppia. Non voglio andare con una malata. No, ma ho capito, d'accordo, ma quello prenderà le tue precauzioni. Mica devi fare le cose senza preservativo, scusa. Ma mi garba anche senza. A me garba farlo senza preservativo. No, cioè, ho capito, no, ma questo bene. Non si fa, non si può fare. Sono senza... lo sposo io. Ma non si può fare senza preservativo, è una porcheria, perché... dai, su. Aspetta, volevo dire ancora un'altra cosa. Siccome sono stato in linea un po' ora mentre aspettavo di parlare con voi, ti ho sentito, allora, innanzitutto quella del sud che ha chiamato prima dicendo che voi gli avete detto che deve andare con gli animali, cioè lei deve andare con gli animali per davvero, perché diritto alla vita, cioè non si può sperare che un terremoto ammazzi la gente perché ammazzano gli animali. Bravo. Questo glielo volevo dire, spero che mi senti, perché lei veramente è una schifosa, cioè speriamo veramente che la metta gravida un animale, oltretutto. Vabbè, adesso questo... non esagerare Alessio, su, stai esagerando, dai, su. Certo, no, che esagero, è giusto. E poi un'altra cosa, per invece del signore di prima del buddismo, anche lì volevo dire una cosa, cioè io se fossi in te quei anni, cioè io sto in un palazzo, io capisco tutto, capisco che questi devono pregare, devono fare tutti va bene, però io, cioè, io non, siccome quella religione non ci credo, se la sera voglio dormire, io voglio dormire, io capisco. No, che ma a me non danno fastidio la sera, dico semplicemente che ogni volta che torno a casa una certa ora sento e quel suono che avete sentito prima da quello là, cioè mi sono rotto le palle. A un certo punto uno c'ha un tempio enorme buddista su un naviglio qui a Milano, hanno costruito, c'hanno un sacco di soldi, andassero là a pregare, non mi rompessero i coglioni. Ciao amico mio, ciao. Grande ritorno alla Zanzara, Gustavo Zagrebelsky. No, che c'entra Zagrebelsky? No, Flavia Vento, Flavia! Eccomi, ragazzi! Amore mio, come stai? Come stai? Quando stiamo insieme noi? Quando stiamo insieme? Sono tutto sempre a Milano. Aspetta, no, ma togliti quel l'auricolare maledetto che c'hai. Toglilo, se no non sento. No, amore, sto in diretta. Come stai in diretta? Certo che stai in diretta. Sì, ti sento meglio adesso. Dai, se no non ti sentivo, tesoro, dai. Eccomi. Allora, come va? Adesso, cioè, ma perché non si sente? Dove l'avete chiamata questa? In quale antro del castello? Dove l'avete beccata? Amore, l'ha chiamato sul cellulare. Se non mi senti, scusa, non è normale. Non so, lo metti male forse, avvicinalo di più alla tua boccuccia favolosa che hai. Mi senti? Sì, adesso ti sento, più o meno ti sento. Senti tesoro, ma che ne pensi del che ne pensi del terremoto? Io non so perché, ragazzi, richiamiamola su, richiamiamo, dai, via, forza. Antonio, chiedi, vai. Cruciani, dimmi. Senti, ti volevo dire, avevo chiamato per dire un'altra cosa, ma mi è venuto in mente questo. Adesso poi ci passo all'altra. Vai, veloce, cosa. vai. Tu, Cruciani, sei veramente un grande professionista quando lo voglio essere. Però quando esageri, come quando hai detto a qua ragazzo va a letto con gli animali, insomma. Fai veramente. No, ma era una provocazione, amico mio, perché sono favorevole a queste cose, sì. Mi fanno orrore, semplicemente perché se uno dice che gli animali sono uguali agli uomini, anzi meglio, allora no, tragga le conseguenze fino in fondo, parla con gli animali. Sì, sì, sì. Ma quella è una stronzata e vabbè, gli animali vanno difesi solo ma perché chi ha detto sono che non li vuole difendere? Indifesi. Ma chi ha detto che non li vuole difendere? Antonio, non diciamo stronzate. Gli animali sono indifesi. A me quelle scene là mi fanno orrore, le teste mozzate degli animali in Nepal, a tutti fanno orrore quelle scene, sì, bisognerebbe cambiare quella storia, sicuramente vanno ammazzati quando vanno ammazzati per mangiare in modo diverso, ma cosa cazzo c'entra col terremoto? Dai, basta, no, quello è una stronzata, no, basta, carità. Questo no, allora, fine, basta. Questo è il discorso, dai, poi un'altra cosa, Crucia, quando io ascolto la Zanzara non per sentire te o Parenzo, ascolto la Zanzara per sentire i vari pareri e mi piace moltissimo, però quando ci si mette sopra Parenzo con quella voce disgraziata, proprio una cosa da un fastidio enorme, me, per favore, guardi, non mi parlare me. Sopra. No, anche a me, non guarda, mi anche parlare a me. Sopra. Anche a me mi dà un fastidio. Capito? Guarda. Non mi parlare anche sopra. Anche a me. Sei anche un a me, cafone. Allora, stavo dicendo, per cortesia, quando per cortesia, una persona sta parlando. Sì. quando una persona sta parlando, sì, lascialo parlare, lascialo sì, parlare, idiota, ma ha proprio ragione, non capisci, non capisci, ha ragione. E poi sei un capone, mamma quando dici, mia, quando ha dici ragione. Ma la famiglia, va tutto bene a casa? Cazzo, come va la famiglia? Va tutto bene a casa, sì? Tutto in ordine? Certo. Ancora? Certo, ancora? Certo. Ma fammi parlare con Cruciani, certo, no? Certo. Fammi parlare con Cruciani, idiota! Parla! Smettetela, dai. Parla, smettetela, amico mio. C'è Antonio, un defibrillatore, Antonio. Antonio. Ce l'hai un defibrillatore? Ma chi cazzo sei che devi annullare la gente parlandogli sopra? Ti ci vuole un defibrillatore. Fermi tutti. Antonio, ho capito. Ciao. Allora, Flavia, sentiamo o non sentiamo? Mi senti? Oh, ti sento, ti sento. Allora, dimmi un po', che ne pensi del terremoto, amica mia? Ma siamo in diretta o stiamo così? Ma no, siamo in diretta, dobbiamo essere. Che facciamo? È 20:48. Allora, anche beh, innanzitutto il terremoto è sempre una cosa della natura, cioè. Vabbè, questo lo sappiamo, cosa... poi? Sì. Io penso lucida che Dio manda problema. I suoi segnali verso l'umanità. Che vuol dire comunque... che Dio manda i segnali? È di una lucidità sta donna, guarda. Vabbè. No, non è la lucidità, la natura spazza via l'uomo, come diceva Leopardi, la natura è più sì, potente di noi. Ma se lo noi sono meritato sti nepalesi. Case di cemento, vabbè, pagandole anche un milione di euro. Vabbè, arriva il terremoto, crolla tutto. E questo a me mi dispiace per il Ma è una punizione? È una punizione di è Dio? È una punizione divina. Ma certo, per che cosa? Per gli animali, dici te? Sì, io ho letto questa cosa di questa animalista, ecco, e ho saputo che in Nepal hanno ucciso 300.000 animali e li hanno ammazzati. E dunque, l'olocausto e dunque il terremoto se lo sono meritato. Se lo sono meritato un po'. Ma non è che se lo sono meritato, ognuno ha quel che deve, sai, io non ecco, ci sono un milioni di bambini che stanno soffrendo, però a me mi dà un po' fastidio l'ipocrisia, nel senso che ecco, ci sono bambini lucida in Iraq che stanno morendo di fame con l'ISIS, e mi venite a fare a me la cosa, oddio mio, ci sono i bambini in Africa che muoiono di sete e adesso il Nepal, dobbiamo essere tutti col Vedi, Nepal, una è una presa per il culo, questa, scusate. E poi ammazzano gli animali, dunque una punizione di Dio, o no? Secondo me la punizione di Dio si sta riversando non solo sul Nepal, ma su tutta la terra, e a su breve, terra, secondo me, tremate veramente. Ma che tremi pure tu, casomai. Poi non ci voleva le 25. Ma poi noi non possiamo più trombare, poi, ci Flavia. Noi non tromberemo mai, perché... A chi te l'ha detto, scusa, che una voce? Dai, Cruciani, allora, diciamo la verità, Cruciani è venuto a casa mia una sera d'estate e ci siamo dati un bacio davanti alla porta. Vabbè, ma quello che c'entra adesso, perché devi rivelare questa cosa? Ma che vuoi che ti dica, amica mia, dov'è la notizia? Ma no, dov'è? Però è una stronzata. La notizia dai, sarebbe il contrario, cioè, scusa, allora aspetta, venuto... allora aspetta, sua... allora ma Flavia, è vero, ci siamo baciati, però aspetta un attimo, Flavia, sulla scommettura ci siamo baciati. Ma è vero che l'altro ancora, giorno, aspetta, stai zitto un attimo. Ancora. È vero che l'altro giorno sei scappato da un bar perché è entrata Ilary Blasi? No, guarda, assolutamente no, io stavo a Mediaset a registrare il programma di Piero e stavo mangiando un'insalata, poi è arrivata lei, io sono andata via perché avevo finito di pranzare e basta. Dunque non è vero che te ne sei andata via quando l'hai vista, come hanno scritto, ho letto da qualche parte. No, io manco l'ho vista, insomma so che stava per arrivare, ma no. Coda, ma manco l'hai vista? Ma dai, coda, dimmi la verità, sei scappata via perché ti vergogni di vederla perché ti sei fatta un del marito, capitano, dai, su. No, ragazzi. Vabbè, ho capito. No. Non è vero. Ma ci parleresti tranquillamente tu con la signora, cioè ci andresti? Non ci parla forse. È forse lei che però non ci parla. Beh, lei mi sa che è ancora incazzata. Ma scusa, si è sposata da 10 anni, dovrebbe essere felice e contenta. Cioè secondo te non è incazzata con te? Ma di che? È sposata, ha 2 figli, sono molto felice per lei, perché dovrebbe essere incazzata con Dunque te? Non è vero, ma tu non l'hai mai più sentito lui, no, mai più. Ma va, ma che me frega di quello, tu, che amore, te frega di pensare di Caprio, posso pensare al capitano della Roma, sogno di Caprio. Ma questa è andata, sogna di Caprio, non pensa a Totti. Amore, io punto in alto in America, non a Ma Roma. All'epoca altro che in alto, all'epoca puntavi in basso, da amica Cruciani mia, all'epoca. Caprio, amore, ragazzi, io ora punto mia, solo in alto, infatti vabbè, comunque smentisce tutto, Flavia Vento. Flavia Vento, 2 punti, ho baciato Cruciani sulla porta, fermato. Le rotative del Corriere della Sera ancora diretto. Ciao ragazzi, a domani 18:30. Ciao, baci, ciao.